Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Mi fa sempre piacere augurarvi buona serata se ci ascoltate in replica alle 20.45. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Oggi parliamo di risorse idriche, se ne parla moltissimo negli ultimi anni, segnatamente negli ultimi mesi. Una risorsa, un oro blu, come è stato spesso definito, vitale per la crescita sociale ed economica dell'intero pianeta. Perché ne parliamo oggi? Innanzitutto perché oggi sul Sole 24 Ore troverete allegato al giornale un rapporto sulla sostenibilità ambientale in cui si parla anche di risorse idriche. E poi perché il 28 e il 29 maggio l'Acquedotto Pugliese e la Federazione delle Imprese Energetiche Idriche, vale a dire Federutility in acronimo, organizzano a Bari un convegno che è un appuntamento importantissimo, si chiama H2 Obiettivo 2000, in cui la sostenibilità ambientale e il servizio idrico nel Mediterraneo saranno temi di forte interesse. Quindi è per questi due motivi che oggi affrontiamo il discorso di un bene comune. E ne parliamo con chi? Innanzitutto con Mauro D'Ascenzi, che è il vicepresidente appunto di Federutility. Buongiorno D'Ascenzi. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. E con Luciano Baggiani, che è presidente dell'ANEA, altro acronimo, altra sigla, che sta ad indicare l'Associazione Nazionale degli Enti di Ambito, cioè i regolatori, vale a dire i cosiddetti ambiti territoriali ottimali. Buongiorno Baggiani. Buongiorno a lei e ai nostri ascoltatori. Allora, io direi, visto che la nostra è una trasmissione che si occupa molto dell'aspetto consumeristico, io partirei da un dato vecchiotto, ma ahimè l'ultimo aggiornato, che ci indica la media delle perdite di acqua dei nostri acquedotti. In Italia è mediamente del 31%, poi ci sono le grandi regioni, soprattutto del nord, che hanno una perdita minore, quelle del sud che ce l'hanno maggiore, ma il fatto è che questo oro blu purtroppo si perde spesso lungo una rete che da taluni è stata in alcuni casi chiamata colabrodo. E allora dico a D'Ascenzi, e chiedo a D'Ascenzi, vogliamo partire con il nostro ragionamento su questo dato? È vecchio e quindi qualche passo in avanti è stato fatto, o è ahimè ancora attuale? Guardi, vi sono delle parti del ciclo dell'acqua che sono molto curate, sono molto innovative, dove si investe con tecnologie nuove, con tecnologie moderne. Vi sono parti che sono quelle più tradizionali, la rete, su cui non si investe o si investe poco. Perché? Per, diciamo, due ragioni, una immediata ed un'altra concettuale più generale. La prima è questa, che può sembrare paradossale, ma con la scarsa remunerazione della tariffa, noi abbiamo le tariffe più basse d'Europa, nel senso che parliamo un quarto della Francia, ecco, non è un 10% in meno, la Francia è il 400%, la Germania certo. Pure. E talvolta togliere le perdite è molto più costoso che lasciarle perdere, che lasciare che l'acqua se ne vada. Dall'altra è concettuale. In realtà tutti ci riempiamo della retorica dell'acqua, bene prezioso, ma pochissimi hanno l'esatta considerazione del suo valore. L'acqua va affrontata in termini globali, non ci si può limitare. Per globali cosa intendo? Intanto per il consumo umano se ne usa soltanto il 30%. La stragrande maggioranza è per uso agricolo e sarà lì il vero nodo del futuro, con cui noi avremo la possibilità di alimentarci, non solo noi ma intere aree del Mediterraneo, tema del resto di H2O di cui parleremo. Allora, governo globale dell'acqua, che vuol dire? Vuol dire, uno, bisogna avere la cultura che l'acqua bisogna tenerla, soprattutto con fenomeni siccitosi che possono avvenire. Trattenerla, perché la vecchia distribuzione dell'acqua a cui provvedevano i nevai o i ghiacciai non tiene più. Seconda, allora, bisogna prego. Distribuirla e non perderla per strada. Assolutamente. Distribuirla correttamente. Terzo, bisogna non sprecarla alla fine e contemporaneamente recuperarla. Noi siamo paradossalmente, ma non tanto paradossalmente, il paese dove l'acqua costa di meno al metro cubo, ma dove si spreca più acqua. Ecco, e io... questo è il meccanismo perverso. Assolutamente d'accordo con lei, del resto le tabelle e i dati che noi abbiamo pubblicato oggi sul Sole dimostrano proprio questo, che l'acqua in Italia, generalmente, ovviamente come media, costa pochissimo rispetto al resto d'Europa, e questo probabilmente in maniera distorta induce molti, moltissimi a sprecarla. Bagiani, abbiamo parlato con Da Scienze, abbiamo accennato al discorso che a volte è più conveniente lasciar perdere l'acqua, lasciarla defluire, quindi avere delle perdite piuttosto che investire. Allora, qual è il valore degli investimenti e soprattutto di quale portata economica c'è bisogno per investire? Lo chiedo a lei, che rappresenta proprio l'ente regolatore sul territorio. Ma oggi abbiamo oramai una ricognizione precisa e puntuale sul fabbisogno per ammodernare tutto il sistema idrico italiano. Ed è significativo che riguarda non solo gli acquedotti e tutto il processo di produzione di acqua potabile degli acquedotti, ma anche poi tutte le infrastrutture delle fognature della depurazione per rispondere alle esigenze appunto normative di sostenibilità ambientale europea. E questo è un problema vero che dimostra quanto è arretrato le nostre infrastrutture. In questa direzione si sono fatti appunto significativi investimenti, certamente ancora non sufficienti per, da un lato, riuscire a rispettare le scadenze europee relativamente alla depurazione delle acque, dall'altra parte ovviamente per adeguare le infrastrutture non solo sotto l'aspetto potabile ma anche sotto l'aspetto delle perdite. E qui noi abbiamo un limite, nel senso che il metodo normalizzato che definisce quanto posso incrementare annualmente le tariffe, lo definisce il metodo alla norma proprio per cercare di rendere sostenibile alle famiglie italiane questa spesa. Le tariffe sono aumentate significativamente, e addirittura in alcune realtà da dove è molto tempo addirittura del 50% rispetto all'originario. Sono insufficienti, probabilmente rispetto al fabbisogno immediato sì, però non è per me un problema di tariffa, e su questo c'è una leggera differenziazione con l'amico Da Scienzi, quanto probabilmente poter aumentare, voglio dire, la capacità di investimento, mi riferisco al limite del K, per accrescere maggiori investimenti nel medio periodo rispetto al lungo periodo. Ecco, ma io le chiedo questo. Allora, detto che non è un problema di tariffe, anche perché credo che con il solo introito e gettito da tariffazione, dando per scontato che c'è una buona parte di morosità, non credo che si sia in grado di sostenere da soli gli investimenti. Allora le chiedo, e poi lo chiedo anche a Da Scienzi. Non è così. Ecco, no, mi corregga per carità se sbaglio. Però quello che volevo chiedere era, al di là della tariffazione, dove si possono poi andare a reperire le risorse in questo momento in cui di risorse ce ne sono poche, ma mi corregga pure, è un piacere sentirla. Allora, il metodo normalizzato garantisce di finanziare attraverso la tariffa anche la grande, anche gli investimenti, pertanto c'è la remunerazione dell'investimento che è stabilito per legge rispetto a quelli che sono i costi anche odierni del tassi di sconto. Io ritengo che sia oggi una remunerazione congrua e adeguata alle imprese. Pertanto qui c'è una grande innovazione rispetto al passato. Oggi, sulla base dei piani d'ambito, abbiamo la certezza ovviamente degli investimenti da fare e la sua remunerazione. Benissimo, adesso la stessa domanda la faccio a Da Scienzi. È d'accordo con questo tipo di prospettiva di Bagiani? Allora, teoricamente Bagiani dice una cosa esatta. In pratica non è così. Perché non è così? Prima cosa, è vero, la tariffa può coprire anche importanti investimenti. La prima cosa per cui però il primo requisito è un progetto ed una certezza della gestione a lungo termine. Noi avremo e possiamo anche sopportare tariffe basse e inadeguate al bisogno immediato di investimento se gli investimenti ci permettono di ottimizzare gli impianti, di ridurre i costi e recuperare poi nel tempo. E se questo naturalmente trova forme di credito molto agevolate che possono anche essere create attraverso dei fondi, alla creazione dei fondi, oppure attraverso la semplice bancabilità. Ma la prima questione che non funziona, abbiamo parlato per esempio noi di idrobond, nell'ultimo nostro direttivo, perché potrebbe essere una forma anche sicura di investimento, perché l'acqua la berranno sempre, ci sarà sempre bisogno di acqua, è crescente, basterebbe una normale remunerazione, potremmo trovare le finanze. Ma la prima questione che mette in discussione questo è l'assoluta incertezza legislativa, per cui noi non sappiamo mai da un anno all'altro se gestiremo ancora. Ogni tanto arriva una legge che dice tutto quello si cancella, da 2010 si parte. Allora chi investe in questo quadro? Qual è quella banca che è disposta ad aspettare 20 anni per avere un ritorno? Assolutamente vera anche la sua visione. Io ringrazio tanto D'Ascenzi quanto Baggiani per aver parlato con noi di un bene prezioso quale l'acqua. Ricordo oggi in Edicola col Sole un rapporto proprio sulla sostenibilità ambientale e dopodomani a Bari comincia l'importante convegno di Federutility. Ringrazio in regia Peter Bescapè. In studio Laura Faggin e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno. Parleremo ancora di risorse idriche.